Fresh Bit di Giulia Crivelli. AIM. Tax drama moves to Senate as Trump takes aim at House Bill. La saga delle tasse si trasferisce in Senato e Trump prende di mira il progetto della Camera. Il Washington Post titolava così un articolo di cronaca parlamentare sull'iter della riforma fiscale che Trump sta cercando di far approvare dal suo Parlamento, il Congress, formato da due Camere, il Senato e la House of Representatives, equivalente della Camera bassa, simile quindi alla nostra Camera dei Deputati. La prima parola che ci interessa è drama, che è un false friend. Non significa infatti dramma, bensì serie o pièce teatrale, televisiva, radiofonica, cinematografica. E, ironicamente, se il termine viene applicato a eventi reali, saga. L'altra parola interessante è aim, scopo, bersaglio. To take aim significa quindi prendere la mira, ed è un verbo irregolare. The shooter took aim and fired. Il cecchino prese la mira e fece fuoco. Ma vediamo il sostantivo. She went to London with the aim of finding a job. Andò a Londra per trovare un lavoro. Our main aim was to increase sales in Europe. Il nostro obiettivo principale era di far crescere le vendite in Europa. Bob's one aim in life is to make a lot of money. Per Bob, l'unico scopo nella vita è guadagnare un sacco di soldi. Poi c'è il verbo regolare, to aim, aimed, aimed. We would aim for a bigger share of the market. Dovremmo mirare a una fetta di mercato più grande. We aim to be there at around 6. Puntiamo a essere lì verso le 6. I was aiming at the tree, but hit the car by mistake. Stavo mirando all'albero, ma colpì per sbaglio l'auto. The book is aimed, quindi passivo, at very young children. Il libro è concepito per lettori molto giovani. My criticism wasn't aimed at you. Non eri tu il bersaglio delle mie critiche, diremmo in italiano. Un'ultima nota su bill, che in inglese significa progetto di legge e spesso anche legge, oltre che bolletta. The members of various parliaments around the world rejected the bill against torture. I membri di diversi parlamenti del mondo votarono contro la proposta di legge sulla messa al bando della tortura. E poi, appunto, ci sono i conti e le bollette. The bills are piling up. Le bollette si stanno accumulando. Send me home the bill, Mr. Doctor. Dottore, mi mandi il conto a casa.